Palla Spicchi con Carlo Genta. Ascoltatori, buon pomeriggio a tutti. Gigi Borghi in redazione, Filippo Aureggi in regia, Flavio Suardo qui con me. Ciao Flavio. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Coach è già in linea e abbiamo il ritorno di un grande ospite come Davide Pessina. Ciao Davide. Ciao, grazie. Ciao a tutti, buongiorno. Coach, buon pomeriggio. Amici sportivi, buon pomeriggio. Pessina, ho visto, lavoro a, sì, al forum ieri sera, concentratissimo. Concentratissimo, bravissimo. Non perché è qui, ma tu lo sai, mio commentatore tecnico preferito. Poi è questione di gusti. Grazie, siete troppo buoni. Senti Coach, l'Armani come il Milan, eh? Vocazione europea, DNA europeo mi sembra. Pende un altro scalpo, quello della, dell'Olympiakos. Sulla carta uno squadrone che costa una montagna di soldi, però non mi convince tanto il vecchio Polifemo Iannakis come allenatore. No, hai toccato l'argomento perfetto. Io non so cosa ne pensa Davide, però io ho visto la peggiore gestione di una squadra da un allenatore che vedo in 35 anni in Europa, cioè proprio una roba allucinante. Cioè, poi questo concetto di non far partire Papa Lucas in quintetto base, Pessina che ha giocato contro le mie squadre, secondo te Davide facevo Mike D'Antoni fare i primi 8 minuti in panchina e avere la fine della serata, non so, 20-22 minuti totale? No, questa poi Ettore Messina l'ha fatto. Coach, ricordati che hai vinto uno scudetto con Kicianovic in panchina e Carbone in campo, eh? Sì, però guarda, quella mossa lì, tutti parlano di questa, la gente non sa che quella mossa lì ha messo noi KO psicologicamente, e Pesaro era più 5 tutta la partita. Solamente noi abbiamo avuto la testa nella partita una sola volta, un secondo dalla fine, o due secondi dalla fine, quando D'Antoni ha fatto con il 6-0 alla fine. Quindi sembrava una pazzia, non l'avrei mai fatto, però quella lì è funzionata. Però l'idea di far partire il miglior giocatore d'Europa in panchina e giocare, so, 20 minuti o 25, per me è pura follia. Poi Prinsissis doveva stare, cioè, ha fatto un sabotaggio tecnico, poi due falli tecnici, un fallo intenzionale e qui là eccetera, hanno perso la partita per due. Complimenti a Milano che ha saputo cogliere l'occasione, tutto lì. Sì, che peraltro, difficilmente una squadra di solito vince una partita quando tira due volte due da due punti in tutto il secondo tempo. Davide, cosa ne pensi? Beh sì, devo dire che sono abbastanza d'accordo. Soprattutto a me quello che sorprende del gioco dell'Olympiakos è li faccia giocare molto sotto ritmo, secondo quello che potrebbero fare. Bravo. Per esempio, la mia impressione è stata che nel secondo tempo, quando hanno fatto 5 minuti di contropiede, hanno alzato la velocità, hanno ripreso 10 punti a Milano. Anche perché metti in prigione le guardie dell'Olympiakos, potrebbero correre a partire dall'Ingrir. Questa non è la nazionale greca che Iannakis allenava benissimo. Questa è un'altra squadra, un'altra cosa, coach. Esatto. Ma ti dico un'altra cosa, non so cosa ne pensa Davide, ma io la prima azione della partita, correggimi se sbaglio, palla 2, Milano, non so, la prima tiro, diciamo, prima segnatura, Milano fa un canestro da 3. Pressing Milano, Olympiakos, non ha un'organizzazione per mettere la palla in campo. Risultato, passaggio direttamente nelle mani di Milano che segna 5-0. Cioè, io dico, questa squadra non è allenata. Poi, guarda Shortsenidis, o sovrappeso di quanti chili? 30 al minimo. Cioè, una squadra non allenata. Pessina ha detto perfettamente, non corrono, è un delitto. Lynn Greer, spersonalizzato, un bambino che è stato il miglior realizzatore in Italia, non sa neanche dove si è appeso il canestro adesso. Cioè, questo è un lavoro tecnico per me pessimo. È andato giù leggero, cioè, sì, Davide. Sì, me ne ha i titoli però per andare. No, nel senso, sono d'accordo. Impressionante il fatto che comunque c'è tanta qualità, tante rotazioni possibili e li fai giocare così sotto ritmo, hai meno possessi. L'Ingrir non può prendere 5-6 tiri in una partita. No. Un giocatore che è utile e pericoloso se fa 10, 15, 12, insomma, comunque se ha la palla in mano e prende responsabilità. E questo vale per lui come per Papaloukas quando c'è, per Vujicic. Insomma, sono tanti giocatori che possono essere utili. Se riduci il numero di possessi, non li fai correre, diventa difficile. Anche proprio come dire, il dialogo tecnico fra loro secondo me diventa difficile. Li vedi che spesso non occupano la posizione migliore in un attacco, o svolgono lo schema senza attaccare o attaccano dal nulla. Anche questa è una cosa che mi ha lasciato abbastanza sorpreso. Guarda, Davide, anche tu conosci Vujicic, ci ha fatto commento mille volte, cioè a Maccabi Tel Aviv dove correvano, lui aveva un certo rendimento. Qui dove camminano, lui sembra un ex giocatore. Tragico vedere lui giocare, cioè la squadra, poi non voglio non parlare di Milano, perché Milano ha lottato con le unghie e Hall ha tirato fuori due canestri da tre, un tap in alla fine, o non vincono. Quindi hanno fatto il loro dovere, tutti hanno fatto il loro dovere, compreso Hollis e tutti gli altri, hanno fatto quello che potevano fare. Cioè, loro hanno reso, sì, al massimo, Olympiacos, se il 50% è già un complimento. Coach, guardando però anche le altre due nostre squadre, sinceramente non c'è da stare molto allegri, soprattutto se partiamo dalla sconfitta di Siena col Cibona Zagabria nella prima giornata. Siena ha tutta la qualità per rimontare tutto questo. Mi piace molto Pianeggiani, fra l'altro, come parla lui, come fra l'altro mi piace Gentile come parla lui, cioè il comportamento del coach. Pianeggiani ha detto, da qui in poi, a lui ha perso in trasferta, che è diverso da Gentile che ha perso in casa, però lui ha detto, da qui in poi ogni partita è una gara da playoff, esattamente così, perché non è 14 partite come nella prima fase o 12, quella che è, o 10, eccetera, qui sono 6 partite, cioè è un mini quadrangolare e si va avanti così. Roma, ovviamente, qui è stata la grande sorpresa della serata, perché sono stati travolti, ha detto anche Gentile in intervista con noi, con Monica Mattiolo a Sport Italia, che proprio non hanno avuto la stessa intensità di Malaga. E poi non dimenticare che Malaga è allenata da Aito, vecchia volpe che ha fatto 7 Final Four di Eurolega e sa allenare la squadra, ha delle buone qualità lì con Scariolo. Quindi, però per Roma una sconfitta importante, pesante, perché la squadra c'è. 800240024, così do i nostri contatti, questo è il numero verde per intervenire. Davide Pessina con noi fino alla fine dell'ora. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Già qualcuno ce l'abbiamo. Non vorrei però che Siena ha tutte le qualità per risollevarsi, Davide, però non vorrei fosse un po' in flessione. L'anno scorso in questo periodo è successo in flessione, guardandosi allo specchio con il suo leader McIntyre, che ha giocato una pessima partita. Potrebbe esserci questo rischio? Bah, sì, ha fatto fatica più di altre volte. Credo sia in una situazione non facilissima, nel senso che comunque adesso deve reinserire Kaukenas, che era uscito, ha fatto qualche cambio, per cui sicuramente è una situazione non semplice. Una situazione non semplice, complicata la sconfitta, perché comunque adesso Siena è in una situazione chiaramente dove può passare benissimo il turno. Però insomma, l'importante poteva essere anche per arrivare primi, per evitare magari Panathinaikos nell'altro girone, nei playoff. E poi Siena soprattutto si troverà al momento delle Final Eight ad avere tanta pressione, certo, perché chiaramente punta pesantemente a vincere anche la Coppa Italia, che non ha mai vinto, e in quel periodo è proprio in mezzo, se non mi ricordo male, alle due sfide con Mosca. Sì, sì. E si decide probabilmente anche l'Eurolega, per cui sicuramente avrà un mese di febbraio molto intenso da questo punto di vista. Ripeto, Siena chiaramente gioca molto bene, gioca forse col Cesca, con Malaga che gioca veramente molto bene, la pallacanestro migliore d'Europa come Barcellona, insomma chiaramente punta a vincere anche l'Eurolega, però deve riuscire a reggere questa pressione che verrà fuori secondo me verso metà febbraio. Coach, cosa dovrà fare Pianeggiani dentro quella pentola pressione? No, ha detto Pessina perfettamente, leggere il calendario e dire quello che hai detto, ogni partita da qui in poi è una finale, non siamo a febbraio ragazzi, siamo a maggio, ok? Siamo aprile, maggio, siamo in fase finale, dobbiamo tirare fuori tutto per la Coppa Italia, tutto per queste partite di Eurolega, tutto in campionato, che magari anche potrebbero subire uno sconfitto lì, non succede niente, ma soprattutto Coppa Italia, però loro devono tirare fuori tutto, e secondo me questa sconfitta può essere uno stimolo, uno shock positivo anche per McIntyre, per tutti quanti, per risvegliarsi, perché ogni tanto ci vuole una scossa, una peggio di cose, perché Pessina ha detto la cosa perfetta, forse con la sconfitta finiscono secondo in questo girone, sfavoriti nella Final Eight, e qui la c'è. Una partita, adesso ogni partita è una finale, tu perdi una partita così, rischi di compromettere la possibilità di vincere l'Eurolega. Coach, io volevo chiederti qualcosa anche tornare ancora sulla lottomatica, perché devo dire la verità, mi aspettavo un approccio diverso rispetto alla partita con Malaga, soprattutto viste le 7 vittorie consecutive in campionato. So che sono due cose diverse, soprattutto anche come livello, però insomma da Roma ci si aspettava un qualcosa di diverso, di più aggressivo forse. Ma se Sani Becirovic gioca così è dura. Sì, Sani, e poi non è, guarda, recentemente, e poi io qualche anno fa anche ricordo Davide, io ho detto Becirovic e la Drazen Petrovic dei poveri, quando prima dell'infortunio ovviamente al ginocchio eccetera, però recentemente io ho visto tante partite dove lui fa palle perse nel momento cruciale, tiri forzati e sbagliati nel momento cruciale, partite bruttissime e partite importanti. Quindi io devo giudicare quello che vedo adesso, che non è il vero Becirovic. Loro hanno un giocatore che assomiglia a lui, ma non gioca come lui, e loro senza di lui sono in grave difficoltà. Poi l'esperimento Jennings, sappiamo dove è andato quella lì, e quindi si trovano, e Brezic, uno che gioca una partita sì e cinque partite no, quindi devono trovare, secondo me, sì, io sono Gentile, io dico, trovo cinque giocatori che mi danno in campo un rendimento, magari sono Della Fuente, che io amo fra l'altro, metto Cecchetti, metto Datome, non so chi, Jennings, ma io metto i giocatori. Io mi ricordo quando allenavo Delaware, abbiamo perso una partita malissimo, ho detto, metto dentro i cinque lottatori in quintetto base, non mi, i ruoli non mi interessano, e messo dentro i cinque giocatori, lottatori, abbiamo vinto contro l'Accademia Navale, c'è cioè una partita importantissima, perché avevamo i lottatori in campo. Gentile forse deve andare così, se lui è sincero, e lei lo è, quando lui dice, noi non siamo stati aggressivi e intensi come loro. Cosa ne pensi, Davide? Beh, sono d'accordo su tante cose, in più io aggiungo che Malaga gioca bene. Oh yeah. Gioca proprio bene. È la Davide, 8 vittorie in fila in Europa. Eh sì, è arrivata prima nel girone, prima nel suo girone, con Olympiacos, con Maccabi, insomma, comunque gioca bene, è arrivata, ripeto, si è qualificata come prima, per cui insomma c'è da dire anche questo, ha grandi atleti, Ndong è diventato un giocatore che può fare la differenza, Eslip è un giocatore che è diventato più continuo anche di quando era all'Efes, grande atleta, può fare male, per cui insomma c'è anche da dire questo. In più ieri, io non l'ho vista, ho letto qualcosa, Jabber è stato un po' al di sotto di quello che ha fatto nell'ultimo periodo, e Jabber è diventato un giocatore fondamentale sì. per la lottomatica, e deve, come giustamente diceva Coach Peterson, trovare delle gerarchie prima o poi definitive con cui provare ad andare avanti, soprattutto a cui attaccarti nei momenti di difficoltà. Coach, io ti devo girare un SMS perché c'è un ascoltatore, Giuseppe, che chiede un tuo giudizio sui due nuovi di Milano, Hollis Price e Moteur, che vediamo se gioca, quando gioca, in che condizioni è. Cosa ne pensi di questi due? Well, innanzitutto Taylor e Borghese ieri sera, cioè la gente, cioè possono essere due ottimi acquisti, soprattutto perché Taylor non conta contro il limite di italiani, di stranieri, eccetera. Però Taylor, la gente, 17 punti a partita nell'NBA nel 2000, cioè un decennio fa. Cioè, bisogna vedere cosa può fare adesso. Non posso mettere nessuna sentenza su di lui perché non l'ho visto giocare con i miei occhi. Price ieri sera mi ha fatto una buona impressione, anche se ha avuto tre palle perse velenosissime, okay? Soprattutto perché non conosceva i compagni, la situazione, cioè proprio, però è una scheggia lui, okay? Cioè, proprio lui ha una, anche, non so cosa ne pensa Davide, ma il primo passo di lui, stiamo parlando di un giocatore che pianta tutti lì, ok? C'è proprio lui, veloce tutto il campo, veloce lateralmente, veloce nel primo passo, e poi si vede che sa trattare la palla, ha una buona tecnica del tiro, cioè dato il giusto tempo a lui sarà un giocatore importante, e ovviamente Bulleri non vede più campo. Bulleri va via, ho l'impressione, un po' come Pato, no? Si pianta lì sul primo passo. Beh sì, molto rapido, molto veloce. A me è piaciuto anche molto l'approccio che ha avuto, nel senso, non è arrivato, non è voluto fare il salvatore della patria, a prendere responsabilità, ha cercato di entrare in questo gruppo con l'approccio giusto. Questa è una cosa importante, diversamente da General Parago, che nel contropiede, che davanti a Davide e la sua postazione, ha voluto far fenomeno, ha fatto passi con la palla della vittoria. Quindi è un po' diverso, Price con molta più umiltà e d'utilità e diciamo mentalità squadra. Parago, io devo far vedere chi sono io. Io ho un ascoltatore invece evidentemente greco, Nikos, che scrive: possibile che nessuno né in telecronaca né adesso parli della schifosa non fischiata su Greer con arbitro a un metro? No, parlo io. Dillo, coach. Innanzitutto ha ragione il tifoso greco, perché il contatto c'era grande come una casa, ok? Cioè, non, su questo era proprio successo davanti a me, ero seduto lì, ero non più di 4 metri da quello che è successo, ok? Cioè, quindi c'è stato un contatto, ma e su questo non ci piove, e doveva essere fischiato, non ci piove, e quindi sì. Però anche Greer, se tu sei un piccolo, stai in una serata pessima, non stai tirando, forse un'entrata, vai dentro dove c'è contatto, dove ci può essere un non fischio, come c'è, cioè, non fai il vecchio proverbio in America: quando tu devi tirare la palla della vittoria in casa, vai a canestro, ti fischiano fallo. Quando tu devi tirare la palla del vittore in trasferta, tira in sospensione, perché se vai dentro ti seguono in quattro, eccetera. Poi, se devo dire la mia, contatto c'era, non ci sono dubbi su questo qui, ma lui in una serata giusta sarebbe rimasto in piedi e non cascato per terra subito. Chiaro, è stata una scelta sbagliatissima, doveva gestire la palla e fare la cosa e essere in campo Papa Lucas. Ripeto quello che dico, che per me Giannakis, cioè poi magari, poi Giannakis è uno che io sono giusto in queste cose qui. Nel 06 io ho votato per Giannakis, allenatore dell'anno FIBA per la vittoria nel mondiale contro gli Stati Uniti, quindi posso cambiare parere. Ieri pessimo, questa è la mia idea. Ma ripeto, una cosa è la Grecia, una cosa è l'Olympiakos, una cosa è allenare giocatori greci che vanno a quel ritmo, che è la loro pallacanestro, una cosa è far giocare a quel ritmo Lingrier, far giocare a quel ritmo Gennaro Pargo e tutti gli altri, insomma. Grazie coach, alla prossima. Ragazzi, ciao Davide. Ciao, ciao, arrivederci. Ciao, ciao. Palla spicchi. E torniamo. Si tirano per la giacchetta, Carlo. Eh? Michael adesso non è più un brocco. Chi lo ha ridicolizzato in questi mesi dovrebbe chiedere scusa. Ma non lo so, ieri forse fino alla fine del terzo quarto, non lo so cosa... Cosa pensava il nostro ascoltatore? No, probabilmente pensava la stessa cosa, però c'è da dire che, come scrive lo stesso ascoltatore, ieri sera ha preso delle scelte anche difficili, ha un grande cuore, soprattutto si prende responsabilità. Sì, no? Ha sicuramente personalità, non ha paura a prendersi responsabilità, ha vinto a Ferrara con un suo canestro, ne ha vinta un'altra, adesso mi sfugge sempre con un suo canestro, si prende delle responsabilità, questa è sicuramente una cosa positiva, ammirevole. È un giocatore che è un po' un 3, un po' un 4, non sempre riesce a trovare la posizione migliore in campo, però è uno che ci dà, è uno che fa quello che può essere utile alla squadra, per cui sicuramente dopo l'inizio piuttosto difficile adesso è un giocatore, insomma, su cui Bucchi può sicuramente contare. Abbiamo due ascoltatori, li facciamo parlare subito con Davide Pessina, 800240024, ricordo numero verde, Marco, provincia di Como, poi Giovanni da Modena. Marco, buongiorno. Non ci siamo, riproviamoci. Giovanni, Modena, buongiorno. Sì, mi sentite? Sì. Salve. Grande Pessina. Tifoso Fortitudo, una domanda. Come lo vedete, magari Bulleri a Bologna, Fortitudo, Play, insieme in appoggio al brasiliano, con i due americani, Strawberry e Gordon, che finalmente giocano da guardia. Prima domanda, possibile? O comunque magari inserimento di un altro americano, non lo so. Domanda di mercato. Secondo, l'automatica, secondo me, comunque un inserimento al posto di Alan Ray ci vorrebbe, perché Becirovic è un fenomeno, però non lo è sempre, e quando il livello si alza forse manca qualcuno. Grazie a lei. Sulla Fortitudo io ufficialmente rinuncio, evito di pronunciarmi perché non ci capisco niente in quella squadra lì. Sì, è una situazione abbastanza complicata, come complicata credo la situazione di Bulleri, per cui è difficile. Chiaramente potrebbe essere utile, io ripeto, Bulleri è un giocatore che piace da sempre, purtroppo da quando è venuto a Milano ha avuto varie vicissitudini, anche infortuni, insomma non è mai riuscito a dimostrare quello che può valere, e quest'anno effettivamente con l'arrivo anche di Ollis Price adesso credo che il suo spazio davvero diminuisca di molto, per cui chiaramente credo che potrebbe essere utile alla Fortitudo. Il problema è quello che dicevi tu, che è difficile capire in effetti quali siano le mosse da poter fare per far uscire soprattutto mentalmente da quella situazione la squadra di Savic e di Pancotto, perché comunque talento secondo me ne ha, io insisto, continuo. Certo, è andato via forte, è andato via Woods, tanto talento, però comunque ancora rotazioni molto lunghe, e Bulleri potrebbe essere utile. Per quanto riguarda Roma, credo che siano in qualche modo alla ricerca, giustamente non hanno fretta, perché comunque hanno rotazioni lunghe, perché comunque possono permettersi di avere pazienza per cercare quello che può essere l'uomo giusto, però io credo che prima o poi un inserimento al posto di Alan Ray lo faranno. Sì, stavo tornando al discorso di Bulleri, per quello che stavo interrompendo prima, forse non da playmaker, cioè io credo che Bulleri abbia disputato le sue migliori stagioni quando aveva un grande playmaker vicino, e forse bisognerebbe trovare un altro tipo di collocazione per un giocatore come lui. Ah, mi dispiace vederlo trattato male, insomma, sì, perché il non entrato di ieri sera è una scelta tendenzialmente precisa, ma direi, nel senso che non è entrato ieri sera, però quando gioca a 20 secondi alla fine del secondo quarto forse anche peggio, nel senso che è chiaramente fuori dalle rotazioni, ma mi dispiace per Bullo che è un grande ragazzo ed è un grande giocatore, vederlo in queste condizioni. Sì, non è facile, chiaro, adesso è anche molto psicologico la situazione, molto difficile psicologicamente. lui è un ragazzo che si impegna, che ci tiene, che forse anche per questo ci pensa magari troppo dopo e quindi fa fatica a uscire da determinate situazioni. È un giocatore che può far bene con un playmaker di fianco, ma secondo me, a parte i momenti in cui magari giocano insieme, un playmaker che magari gli copra le spalle nei momenti in cui magari fa un errore, si siede e arriva l'altro. Non tanto, anche, cioè, voglio dire, con Edney giocava insieme, ma giocava anche tanto al posto di Edney, per cui alla fine c'era questa situazione. Poi era probabilmente più tranquillo, più sicuro. Io credo che lui abbia bisogno di trovare di nuovo un modo di giocare un po', di giocare un po' con continuità, di ritrovare fiducia, e poi credo che possa tornare a essere quello che era. Potrebbe andare Bulleri, si dice a Cantù, da dove Roma, chiama Marco. Ah, allora lo sentiamo subito, perché poi c'è un ascoltatore che dice una cosa giusta su Roma. Poi ci andiamo su Roma. Marco! Buongiorno a voi. Buongiorno. Saluto il mio amico Pe. Ciao. E vi volevo fare questa domanda. Ma secondo voi, negli ultimi anni, si è visto, cambiando magari i protagonisti, però le piccole squadre, mettiamo Napoli all'inizio, era una piccola squadra, poi si è confermata, è andata in Eurolega e dopo è successo quello che è successo. Vedi Avellino, vedi Teramo quest'anno, vedi Cantù che negli ultimi due anni comunque è sempre lì, con squadre, diciamo, in partenza non a livello delle grandi. Ecco, poi che cosa dite di queste piccole squadre nel proseguo del campionato e come vedete poi, diciamo, come protagoniste queste squadre? Io dico che la competenza non si compra, quindi sono squadre costruite con grande competenza e magari non molti denari. O meglio, si può comprare anche la competenza. Sì, vai a prendere quello competente da un'altra parte, bravo. Esatto. Beh, sono squadre fatte molto bene, fatte con grande attenzione, fatte da grandi dirigenti. Facciamo il caso di Cantù, Bruno Arrigoni, uno che la pallacanestro la conosce bene, molto bene. Per cui non è un caso che insomma sia sempre a buonissimi livelli da tanti anni. In più ci si credo sia anche un po' un discorso di pazienza obbligata, non so come dire, non avendo tanto da spendere, tu fai una scelta inizio stagione e prima di cambiare ci pensi 4-5 volte, non è che cambi subito, e questo magari da tempo faccio l'esempio di Cantù, Sandiata Gains, che sembrava tagliato, inadatto a questo campionato, ha capito dove era finito, ha avuto pazienza, ha avuto fiducia ed è diventato un giocatore che può fare la differenza. Magari in altre realtà non c'è tanta non si può aspettare tanto, comunque non c'è tanta pazienza, comincia a cambiare, a volte finisci in un meccanismo da cui non esci più. E credo che alcune di queste possano andare avanti bene fino in fondo, perché comunque in ogni anno c'è stata qualche sorpresa. Mi viene in mente Montegranaro, per dire, l'anno scorso è arrivato in semifinale, Napoli che ha vinto la Coppa Italia, Avellino che ha vinto la Coppa Italia, per cui credo che, insomma, quando si creano queste determinate situazioni poi hai fiducia per arrivare fino in fondo. No, diciamo, il nostro ascoltatore che diceva di Roma, il tanto inseguito e molto pagato Brezze, cioè si sta rivelando un discreto pacco, troppo soft, senza voglia di vincere, pessima impressione, dice questo nostro ascoltatore, che poi si aggancia all'acquisto di Alan Rey da parte di Ferrara. Alan Rey che potrebbe essere un giocatore che dà una mano a Ferrara per la salvezza, e si è visto già. Beh, decisamente, sicuramente un giocatore che ha numeri tecnici di alto livello, un giocatore che può far molto bene, soprattutto magari in una realtà dove ha tanto spazio, tante responsabilità, possibilità di sbagliare, per cui sicuramente, insomma, per la lotta salvezza Alan Rey può essere un protagonista. Brezzi è un giocatore effettivamente che ha questo tipo di caratteristiche, non è un atletone, non è un lottatore, non è un lottatore feroce, sicuramente ottima tecnica, sicuramente un giocatore che può avere tanti punti nelle mani, però ha quel tipo di gioco lì, per cui io credo che Roma magari all'inizio pensasse di poterci puntare più in maniera totale. In realtà probabilmente si sono accorti che in determinate situazioni può essere un giocatore che ti risolve anche le situazioni, in altre meno. Però senza farci il massimo affidamento. Soprattutto mettendoci magari De La Fuente e Hudson di fianco, che sono due buoni rimbalzisti, visto che lui proprio a rimbalzo ne prende due a partita. Però è un giocatore che in determinate situazioni può far male, perché comunque 2,15 metri è grosso, ha buonissima mano. Sì. Palla spicchi. Ecco che torniamo, Davide Pessina qui con noi ci stava raccontando un aneddoto quando siamo entrati, insomma, facciamolo pubblicamente, una partita di qualche anno fa. No, vabbè, si è persa con Pesaro, con scelte finali non azzeccatissime. Di chi? Una di Giorgi, ve ce la dico. Ma tutta va. Papale, sì. No, nel poi senso lo chiamo. Che passò la palla al giovane Alberti che andò in lunetta e sbagliò i due tiri liberi, ma non era colpa di Alberti, era colpa di Giorgio, che si doveva tenersela a mangiarsela. Chiaro, e invece sì. La passò via e vabbè, questa è una piccola cosa. Per il mio amico Sasha, così avremo qualcosa su cui discutere. Andrea da Biella, Buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a voi, salve. Complimenti per la trasmissione. Volevo chiedere un parere a voi, a Pessina, su un giocatore di Biella che è Rhys Gaines. E un parere sul sistema di gioco di Biella. Questo corri e tira esasperato di Becchi, se è una formula che può pagare o se è una novità per il campionato. Ecco, questo volevo chiedere a voi. Grazie Andrea, rispondiamo subito. Davide. Okay, yeah. Allora, Rhys Gaines è un mistero, nel senso che è un giocatore con enorme potenziale e non sempre riesce a esprimerlo al meglio. Un giocatore che per certi versi tecnicamente comunque condiziona tanto la palla in mano, però è un giocatore che ti può risolvere le partite in qualsiasi momento. Poi mi sembra che a Biella tutto sommato sia dove riesce a rendere al meglio, anche se quest'anno forse ancora un po' altalenante. Lo stile di gioco credo sia anche dovuto alla caratteristica dei giocatori, e soprattutto in casa Biella così fa male. Fa male, si è visto con Bologna, si è visto in altre situazioni, perché comunque tutto nasce da grande intensità difensiva, da grande energia, da grande fisicità. Ci sono giocatori come Gist, come Jerebko, che sono comunque dei grandi atleti, e da lì poi vanno in contropiede, prendono fiducia, il pubblico si gasa, e questo sicuramente è un aspetto importante. Io credo che sia una scelta, tutto sommato si addice bene alle qualità dei giocatori che hanno. Poi io faccio il tifo per Biella, perché è una realtà perché è una realtà meravigliosa. Adesso cambiano anche casa, no? Il vecchio palazzetto. Sì, che era l'ultimo, quella con la Virtus è stata l'ultima al Palabiella, e ci sarà il nuovo Palasport. E si apre una nuova era per Biella, che è una società che ha sempre, ma Davide Pesino lo sa meglio degli altri, ha sempre lavorato in maniera meravigliosa. Sì, insomma. Sì, no, ha sempre fatto il passo perfetto, molto corretti anche nel trattare i giocatori, regolarità nel pagamento di stipendi, insomma, sono tutte piccole cose però molto importanti. Il giocatore quando arriva lì si sente a casa, si sente accudito, si sente parte di un progetto, e questo tante volte ti fa dare quel qualcosa in più che magari altre volte non dai. E soprattutto c'è competenza, c'è Atripaldi, Baiesi, insomma persone molto preparate, Luca Becchi che è bravo ad allenare questa squadra, e c'è un bell'ambiente col pubblico caldo, e infatti comunque credo che siano un po', diciamo, con sentimenti contrastanti in questo vissuto, questo passaggio nel nuovo palazzo dello sport, perché da una parte chiaramente c'è il fascino dell'arena più grande, della novità, insomma, di cominciare un nuovo progetto, dall'altra è lasciare il catino, lasciare la tua tana, dove comunque il pubblico è vicino, partecipe, caldo, invece questo è più grosso, più ampio, magari qualche posto vuoto ci sarà all'inizio, perché comunque più di 5.000 persone sono tante. Sì. Per cui sono un bel bivio, però la serietà del progetto, della società, dell'ambiente fa ben sperare che, insomma, Biella rimarrà ad alti livelli per tanto. Io ho visto partite lì dentro che sembrava essere a Salonico bei tempi. Però io ci grande tengo a dire una cosa, sempre molto corretta. Sì, cioè, negli anni in cui ho giocato io sono andato a vedere partite, a commentarle, anche dopo sconfitte, lottate o... Ho visto squadre avversarie uscire tra gli applausi, e questa è una cosa molto bella. Tra l'altro Biella che ha aperto ufficialmente non dico la crisi della Virtus Bologna, però a Bologna qualcosa, a Bologna sponda Virtus qualcosa sta succedendo. Io provo a buttarne lì una, tecnicamente non mi sta convincendo tanto, un certo tipo di gestione, per esempio io Charlotte Ford in quel modo non lo farei mai giocare, mi sembra, poi voglio dire, Bonicioli è una persona che interviene spesso in nostri microfoni, magari capiterà di parlarne anche con lui, avrà le sue buone ragioni, vista così però è una squadra quasi, non dico spiegabile, però ci va vicino, insomma. Una squadra che sì, anche io ho l'impressione faccia fatica a trovare i propri equilibri, ne ha perse 5 delle ultime 7 in campionato. Fa fatica a trovare bilanciamento, fa fatica a trovare punti di riferimento. C'è il solito discorso, si parla tanto di Boykins, però effettivamente Boykins è un giocatore particolare con cui giocare molto veloce, a volte troppo veloce anche per i suoi compagni, perché lui a volte pensa di dover rallentare, rallenta, e non sempre riescono a trovare il ritmo. Bonicioli è un allenatore a cui piace spesso avere quintetti alti, con Charlotte Ford numero 4, Chiacci numero 5, adesso arriva il nuovo Terry che potrebbe giocare anche da numero 3, comunque numero 4. È una squadra che ha talento, una squadra che nel momento in cui riesce a trovare soprattutto le spaziature, io credo, in campo, poi può essere molto pericolosa perché ha tante soluzioni. Sì, mi sembra che Matteo non abbia ancora le idee chiarissime sulle scelte. Sì, credo che insomma alla fine credo che anch'io, insomma, all'inizio se mi sembrava che avesse in linea di massima capito come poter far giocare questa squadra, poi invece si è inceppata un po' e adesso probabilmente deve ritrovare un'altra maniera, sì. 800240024, io ve lo ricordo se volete parlare con noi. Davide, invece vorrei ritornare a schema libero in Eurolega, perché ieri sera, tra le altre cose, abbiamo capito che il CSKA ha smesso di scherzare. prima fase ha giocato un po', ha lasciato vincere qualcuno, Messina si è sfogato le sue sfuriate, i suoi allenamenti alle 5 del mattino, eccetera, eccetera. Adesso basta. Ieri sera giocano a Istanbul. E gli avversari ne fanno, ne fanno 48 contro gli 83 abituali di media. Insomma, il CSKA ha smesso di scherzare e ha cominciato a smettere di scherzare dalla base, cioè chiudendo tutte le viti in difesa. Eh sì, beh, sicuramente è la squadra con cui si deve fare i conti per vincere questa Europa. No, tutti a dire, ma però magari quest'anno non ci casco. Sei d'accordo sul fatto che ha meno talento? È una squadra diversa rispetto agli altri giocatori... anni? Da quel punto di vista, cioè, giocatori magari meno talentuosi, che non mi viene un altro termine, sì, cioè... poi forse anche meno adatti, ci si aspettava meno adatti al gioco di Messina, per esempio cambio Planinic, Papaloukas, francamente, cioè Planinic è un buonissimo giocatore, però come caratteristiche non sai quanto si possa adattare al gioco di Messina, invece lo sta facendo. Morris è un giocatore che è stato abbastanza altalenante fino adesso, Lorbeck è un giocatore che può dar tanto, però anche lì bisogna vedere come si sarebbe inserito in questo contesto, però poi quando c'è da vincere questi sono sempre lì, perché hanno una grandissima organizzazione di gioco, sanno cosa si deve fare in quei momenti, sanno come aiutarsi, hanno giocatori come Smodic, come Landon, come Holden, che sicuramente sanno vincere questo tipo di partite, sanno che le vince in difesa. 48 punti al Fenerbahce sono veramente pochi da lasciare, veramente pochi. Tra l'altro, poi cambiamo argomento, perché stavo guardando proprio adesso il tabellino della partita, un andamento costante, cioè 48 punti sono stati 12, 13, 13 e 10, quindi vuol dire che hanno difeso per 40 minuti con quel tipo di intensità. No, questo è un classico della squadra di Messina, nel senso che comunque difficilmente mollano nell'arco della partita, c'è grande attenzione ai dettagli, c'è grande attenzione a tutto. Derby spagnolo ieri sera, Real di 2 sul Barcellona. Sì. Cosa ne pensi del Barcellona? Barcellona secondo me ha avuto un periodo che era spettacolare. Quando ha battuto Siena, in quel periodo quasi giocava... come quelli del calcio. Sì, giocava una pallacanestro straordinaria, fatta di un'intensità difensiva clamorosa, anche lì rotazioni molto lunghe, grandi atleti, possibilità di pressare, correre, divertirsi tra virgolette, giocava veramente bene. Poi è chiaro che non puoi mantenere in un anno quella qualità, ha avuto un minimo calo. Real Madrid è un'altra squadra che non mi aveva convinto sempre, una squadra con grande potenziale, che può far bene, anche quella molto lunga, però non sempre aveva espresso al meglio il suo potenziale. Per esempio mi viene in mente la partita di Milano, dove Milano aveva giocato molto bene, però Real Madrid aveva avuto un po' di lacune. Invece insomma la partita dell'altra sera, vinta dal Real, dà anche fiducia, poi 12.000 persone, insomma, un bello spettacolo. Lì è così, tenendo conto anche che Milano è andata tanto così dal vincere a Madrid. Milano è andata tanto così, vincere in tanti posti. No, ma sono curioso di vedere il prosieguo dell'Eurolega di Milano. Ma Milano a questo punto se la può giocare. Se la può giocare sì, sarà molto importante la prossima sfida, credo, a Procom. Quella sarà un po' l'ago della bilancia, perché a questo punto, se aggiungi allo scalpo Olympiacos una vittoria in trasferta, a questo punto... No, poi tenendo conto che l'Olimpiacos gioca col Tau, dovesse perdere col Tau sarebbe due partite avanti Milano, però è vero che insomma il Tau in teoria dovrebbe scappare. Tau gioca bene, anche il Tau gioca molto bene. Sì, aveva vinto di 22 col Procom, una partita che praticamente non c'è stata, 34 a 15 alla fine del primo quarto. Quindi un attacco straordinario, un orologio. E però lui, ecco, un problema che può esserci per il Tau, si è fatto male splitter per un po' e questo potrebbe essere un problema. Sì, comunque girone tutto da leggere. E poi l'Olympiacos vista ieri sera, commentata da te e poi sentito Coach Peterson, insomma sembra la grande favorita a nomi di questa Eurolega, comunque una sicura protagonista del Final Four. È chiaro che giocano con una montagna di pressione addosso, perché è una squadra che costa tantissimo, una squadra su cui c'è molta attesa. Immaginati se fallisce, insomma. E se fallisce è un problema, sì, perché ha speso veramente tanto, uno sproposito. Però ha chiaramente la possibilità di rimontare, insomma, di recuperare. È chiaro che con ogni probabilità Milano se andrà a giocare là. E questo sappiamo cosa vuol dire, insomma. Sì. Però la pressione sarà su di loro, magari un passo falso in più lo fanno, non lo so. Ripeto, la qualità del gioco è ancora abbastanza di là da venire per l'Olympiacos, però devi sempre mettere in conto che possa arrivare alle Final Four. E come si diceva ieri in telecronaca, se questi poi arrivano alle Final Four, gli togli la pressione. Panathinaikos ha un po' sofferto contro il Partizan, sono rimasti in partita 30 minuti gli uomini di Vujosevic e poi c'è stato l'ultimo quarto in cui sono crollati. Però Panathinaikos insomma, squadra anche questa abbastanza sotto pressione da quel punto di vista lì. Però anche mi sembra ancora un po' sotto traccia, non so, non credo abbiamo ancora visto il vero Panathinaikos, insomma, che si potrebbe vedere nel caso di playoff e Final Four. Sembra una squadra pericolosa, anche questa lunghissima, con rotazioni lunghe, allenatore straordinario, per cui è difficile, soprattutto, diciamo, speriamo di no, però potrebbe capitare in un playoff Panathinaikos Siena. Sì, poi facevi riferimento ai minuti prima, io sto guardando anche qui il tabellino. Jasikevičius ha giocato 9 minuti e 58 secondi, Drew Nicholas 9 minuti e 54. Tra l'altro ce ne sono questi colpi. Attenzione, però poi il Partizan comunque è una buona squadra. Eh sì. Infatti il girone in Roma è tostissimo, tostissimo. Il Partizan è passato come quarta, Panathinaikos come terza, Roma e Malaga, è veramente duro. Altra squadra dove faccio il tifo, il Partizan. Tra l'altro, abbiamo parlato anche l'altra volta, sei venuto a un paio di giocatori che mi piacciono da morire, a partire da Veliskovic, che non sta giocando benissimo le ultime partite che ho visto, non l'ho visto proprio brillante, però comunque mi ricordo un po' la vecchia scuola slava, no? Forse sì. La scuola slava che ritorna, sì, questo Partizan. Poi continuano a produrre giocatori, ma via l'ultimo Pekovic che è andato appunto al Panathinaikos, per cui ieri gliene ha messi 26 così d'avversario. Da dargli il benvenuto ad Atene. Palla spicchi. Dunque torniamo, come anticipato, con un altro ascoltatore, Antonio da Bologna. Ricordo il contatto, 800240024, ancora una decina di minuti scarsi per la verità. Antonio, salve. Sì, ciao, pronto, buongiorno, sono Antonio. Per l'esercizio da Casalecchio comunque va benissimo. Casalecchio, perfetto. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Due domande sulla Virtus. La prima, secondo a vostro parere, che cosa manca o è mancata fino ad oggi a questa squadra per poter giocare un ruolo un po' più, diciamo così, da protagonista nel campionato fino ad oggi. La seconda è se secondo voi, da un punto di vista dell'organico dei giocatori, dei ruoli, questa squadra è coperta sufficientemente o potrebbe bisognare di qualche integrazione o di qualche intervento. Grazie, complimenti, buona giornata. A lei Antonio. Sono difficili. Non facciamo degli interismi. No, ma sono difficili queste domande qua, perché se ti chiedi cosa potrebbe mancare alla Virtus, forse un po' di tranquillità. Gli interismi, perché anche i tifosi dell'Inter, quando le cose non vanno bene, raccolgo gli sfoghi la domenica, no? E mi dicono, ma compriamo un altro attaccante? No, ma mi sembra che ce ne siano già abbastanza. Anche alla Virtus mi sembra che ci siano già abbastanza giocatori. Bisogna capire se è possibile metterli insieme e fare una squadra. Sì, credo debba trovare equilibri, fondamentalmente equilibri e continuità, sono cose non facili da trovare, ci vuole pazienza, ci vuole serenità, possibilità di lavorare. Aggiunte non lo so, aggiunte a me sembra una squadra già abbastanza completa, poi hanno già cambiato parecchio, insomma è andato via, adesso hanno messo fuori squadra Arnold, è arrivato Terry, per cui insomma io credo che questa sia una squadra che possa avere anche varie possibilità tecniche, tattiche di quintetti diversi, abbiamo detto quello con tre lunghi, quello con Giovannoni numero 4, per cui io credo che sinceramente la cosa di cui ha più bisogno è un po' di equilibrio tecnico anche all'interno, di capire veramente come giocare insieme in tanti momenti della partita tra i giocatori, per il resto come talento ha possibilità di essere insomma tra le primissime. Sì, un po' di spirito canturino, no? Cioè dovrebbero adesso a questo punto chiudere le porte le porte girevoli, siamo noi e siamo noi, vediamo cosa viene fuori. Sì. Messina ha vinto tanto, scrive Oreste da Treviso, ma è come Capello. A Treviso abbiamo avuto lui ed Antoni, ma ci si ricorda solo di Mike. Il Cesca non concilia con il bel basket. Io sto zitto. Invitatelo, non abbiate sempre paura di mostri scale. No, è stato ospite diverse volte. Quindi no. Io sì. Ettore Messina, dico, invitatelo, non abbiate paura dei mostri sacri. Ora perché? No, il Cesca non concilia quel bel basket, direi proprio di no, dai, ecco. Questo non sono tanto d'accordo, gioca bene, anzi, si parla tanto di spaziature nella pallacanestro, ecco, il Cesca è una delle squadre che ha le spaziature migliori d'Europa, gioca bene, tutto molto studiato, molto, come dire, preciso fino all'ultimo dettaglio. Poiché possa essere rimasto più impresso Mike D'Antoni di Messina a Treviso, può anche essere, sono cose che insomma sono due palacanestro diverse. Poi Mike anche due persone diverse, però io credo che insomma su Messina si faccia fatica a dire qualcosa, insomma la sua carriera lo dimostra, la sua capacità poi di far giocare le sue squadre. Io faccio un esempio, a me è capitato di vedere sia l'anno scorso che quest'anno in precampionato il Cesca, senza tanti giocatori, con tanti ragazzi giovani interessantissimi, Zabelin, Schwed, chi più ne ha più ne metta. Però con Schwed al posto di Papa Lucas giocavano allo stesso modo, magari con un po' meno di talento, magari con un po' meno di personalità, però uguali. questo vuol dire che c'è la mano dell'allenatore pesante, giocano bene uguale, spaziati bene, con le scelte giuste, con l'attenzione a tutti i dettagli. E questa è una cosa che insomma un allenatore come Messina spartito è quello, si gioca in quello e si è dimostrato che seguendo quello spartito si vince, che è la cosa più importante. Peraltro Messina a Treviso nella stagione in cui ha vinto lo scudetto 39 vinte su 47. No, ma assolutamente no, ma infatti, che, dire, infatti che brutto ricordo. Poi voglio dire, ripeto, Mike D'Antoni sicuramente una pallacanestro diversa, ha lasciato un ricordo diverso, anche le sue squadre giocavano molto molto bene, però insomma è difficile dire qualcosa su come gioca il Zesca, veramente. Senti, diciamo qualcosa invece su come gioca Avellino, Davide. Avellino, secondo me, potrebbe in questa seconda fase di stagione l'utopia diventare pericoloso. L'utopia di Marcos, che ancora una volta vincente. Sì. Altra squadra della quale non capisco nulla, Avellino. Ho rinunciato anche lì. Però ha fatto un'Eurolega tutto sommato più che decente. Certo, questo e questo avrebbe potuto comportare dei problemi in campionato, perché comunque hai viaggi, spostamenti a doppio impegno. Invece è andato tutto bene e adesso con un impegno a settimana e equilibri forse un po' più trovati può diventare pericolosa per tutti. Non la vorrei mai avversario nei playoff, né Marcoschi né Avellino, perché possono... Sì, poi comunque qualità, c'è la crescita di Crosariol che sta andando bene, Travis Best è un giocatore molto importante, riesce a fare giocate importanti, Chris Warren adesso un po' ha avuto un po' un calo, però è un giocatore tra i più interessanti del nostro campionato. Poi Drake Diner, che sembra aver trovato una nuova dimensione da playmaker, giocatore di grande intelligenza, che però insomma l'anno scorso a Siena non si era esattamente trovato, quest'anno ad Avellino non è partito benissimo, un giocatore che a me piace molto. Sì. Playmaker non saprei, solo Marcoschi può averlo visto lì, però comunque Avellino, ripeto, non la vorrei mai trovare davanti nei playoff. Invece, da una che sta andando molto bene a un in crisi nera come Pesaro, cosa ne pensi? Pesaro mi sorprende un po' che non vada troppo bene, perché io credo che sia comunque una squadra costruita abbastanza bene, è un allenatore che a me piace molto, come Pino Sacripanti, ha buoni equilibri anche, il problema è che forse manca qualcosa in playmaking, perché Stanic, poi abbiamo avuto problemi in infortuni, Stanic, Van Rossum, adesso appena rientrato, hanno preso Nardi, però insomma questo è un po' un problema, e soprattutto è entrata in quella fase anche lì dove perdi fiducia, perdi certezze e tante piccole cose che ti vanno male ti fanno insomma fare più fatica di quello che dovresti. Va anche ad affrontare due squadre pericolosissime, perché ha in serie Ferrara e Rieti, e sono due partite difficilissime, addirittura qualcuno parla di panchini in pericolo per Pino Sacripanti, che potrebbe appunto vedere un po' messo in bilico il suo futuro a Pesaro, però è un momentaccio anche proprio in virtù del calendario che propone queste due avversarie che sono in lotta per la salvezza. Proprio da Ferrara che ha il nostro prossimo ascoltatore, che è Daniele. Salve. Buongiorno. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Io volevo chiedere proprio dei chiarimenti in merito alla decisione che è stata adottata di fare le due retrocessioni ugualmente nonostante i problemi che ci sono stati. Volevo chiedere quali erano state le motivazioni. E mi dispiace un po', perché magari poteva essere un'opportunità per vedere quest'anno un campionato così senza essere legato all'emotività della retrocessione, quindi magari si poteva vedere un po' più di spettacolo maggiore. Non saprei, siamo italiani non americani da questo punto di vista. Sì. Però sulle due retrocessioni è stata mantenuta questa formula per preservare gli equilibri. Mi sembra che la formula così com'è vada bene. Sì, è chiaro che a 16 squadre due sono tante, c'è molta più pressione e più squadre coinvolte. Io credo che sia un discorso di ovviamente all'interno della Lega e probabilmente anche in qualche modo di rapporti con la Lega 2. Perché se tu togli le due retrocessioni togli le due promozioni. È chiaro. E quindi credo che si muova nell'ottica di questo anche. È chiaro che a 18 due retrocessioni è una cosa, 16 cambia, infatti c'è molta più pressione su tutto. Poi questa è anche una buona occasione per tenere il campionato a 16 squadre. Il campionato 18, non era granché. Forse potrebbe essere una buona idea. Sì. No, campionato a 18 molto annacquato, così mi piace di più. Poi tra l'altro la lotta retrocessione è molto fluida. Perché... Sì, ha messo in difficoltà, come diceva Davide, tante squadre, perché adesso se guardi la classifica, a parte che Rieti e Udine hanno 4 punti di distacco, sono ultime a 8 punti, poi a 12 però ci sono Pesaro, Caserta, Fortitudo, Bologna e Carife, Ferrara, a 14 c'è Biella e addirittura a 16 c'è l'ottavo posto che è quello dei playoff sostanzialmente. Quindi ha messo in difficoltà tante squadre che magari avevano programmato la stagione in un certo modo per partire lunghi con dei giocatori vogliamo, nuovi. Scusami, è questa la cosa più grave, il fatto che si sia deciso tutto questo a settembre. Esatto. Questo sì. Davide, abbiamo ancora un minuto e mezzo e vorrei usarlo per chiedere una tua opinione sulle finali di Coppa Italia. Troviamo anche quest'anno la sorpresa nel nuovo di Pasqua fuori stagione come è stata Avellino l'anno scorso o no? Bah, può essere, perché comunque la formula si presta anche. Bella, Bella, partita secca, insomma, chiaramente mette pressione. Siamo alle solite, Siena arriva da strafavorita, Siena in teoria non dovrebbe avere avversari, però una partita secca ha dimostrato che la puoi perdere. In più, come dicevamo, arriva nel mezzo delle top 16 di Eurolega in una situazione comunque delicata, e questo può aggiungere pressione. L'anti-Siena potrebbe essere, non so, magari Teramo quest'anno. È chiaro che bisogna vedere come le varie squadre, quelle più abituate e quelle meno, giocano questo tipo di partita certo. Secca. Attenzione che campanellino senese, ne riparliamo nelle prossime edizioni di Pallaspicchi, però mi fa pensare la sconfitta dell'altra sera di Zagabria di Siena. Sono curioso di attendere delle riprove. Beh, però sinceramente se posso dire, io credo che probabilmente come sempre in questi anni tornano più forti. Sì, questo hanno una mentalità straordinaria, hanno anche loro, come il Cesca, un sistema molto preciso in cui certo. Si trovano molto bene all'interno, per cui io credo che insomma anche nella gestione della crisi saranno bravissimi. Saranno bravi, sì, però sicuramente ci sarà pressione, questa sì. Davide, grazie. Grazie a voi. Ti aspettiamo un'altra volta naturalmente, poi adesso usciamo e chiamiamo Sasha su quella su quella storia del passaggio, sì. grazie a Davide Pessina, Flavio Suardi, grazie a Gigi Borghi in redazione, a Filippo Aureggi in regia. Lo sport torna naturalmente domani pomeriggio dalle 17 alle 18. Vi aspetto, buona giornata a tutti.